Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E buonasera a tutti e benvenuti nella programmazione serale di Blu Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, saluto anche Maurizio Calzavara, mio compagno di cordata anche in questa serata di venerdì 24 giugno del 2011. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa sera una puntata davvero particolare. Noi di Blu Radio Veneto abbiamo abituato bene i nostri ascoltatori promuovendo sempre nuovi appuntamenti live con interviste e piccoli showcase acustici, ma questa sera vogliamo fare di più perché abbiamo un ospite davvero eccezionale. E diamo il benvenuto a Aldo Tagliapietra. Buonasera Aldo. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Aldo. Allora, Aldo Tagliapietra, componente storico e socio cofondatore del gruppo Delle Orme, è qui con noi questa sera per proporci quello che è il suo nuovo lavoro da solista, in versione acustica o, come è bello altrettanto chiamare, in versione unplugged, perché è proprio così che si intitola il nuovo lavoro di Aldo Tagliapietra. Sì, ci sono due CD, 12 appunto canzoni per ciascuno, 20, totale 24, ed è stata così una cosa fatta un po' anche per divertimento, poi anche suonare appunto con un gruppo tutto acustico. A me piacciono gli esperimenti, quindi... Ne hai fatti tanti nella tua carriera di esperimenti. Tantissimi. Ecco, io ho portato anche una chitarra, quindi a questo punto, insomma... Sì, anche perché normalmente i nostri gruppi, chi si avvicendava dove sei seduto tu, Aldo, facevano un pezzo live, un pezzo da disco e così via. Invece tu ci hai stupiti sin dal principio perché hai detto no, noi io facciamo direi tutti che live. C'è la chitarra e usiamo. Visto usiamo, che c'è la chitarra, la usiamo e anzi ci fai un grande onore esprimerti dalle frequenze di Blu Radio Veneto proprio per presentare questo tuo nuovo lavoro che ricordiamo chiamarsi Unplugged nella versione 1 e 2. E 2, l'ho trovato in tutti i negozi, quindi insomma che è uscito da poco, quindi è uscito da poco, esattamente. È un lavoro che prende gli spunti da tanti periodi della tua carriera musicale, Aldo. Sì, ho voluto dare una panoramica, una panoramica abbastanza ampia, quindi ci sono delle canzoni che vanno addirittura a toccare gli anni 60, l'epoca beat, insomma. Sì, poi negli anni 70, e addirittura ci sono tre inediti che ho voluto inserire giusto per far capire che, come dire, almeno dal punto di vista di autore, sono sempre, come dire, prolifico, ecco. Certo, è vero la storia, l'aneddoto che quando avete iniziato, hai avuto l'idea di fare la band, il nome doveva essere Ombra, tipo sì, gli Shadow. Beh, noi eravamo dei fans degli Shadow. Esattamente, cioè, doveva essere Ombra. Come molti gruppi certo. di quell'epoca. E quindi avevamo pensato appunto alla traduzione Shadows, esatto. Ombre, soltanto però, che essendo anche veneziani, esatto. Allora il discorso è leggermente mutato. Era un po' imbarazzante. Esatto, ecco. Esatto. Allora abbiamo usato una parola che ci assomiglia, quindi non c'entra niente il discorso sulle nostre orme, lasceremo le tracce, che ne so, non c'entra niente. Proprio, beh, le tracce. È stato un omaggio agli Shadows, ecco, è stato un omaggio agli Shadows, gruppo basilare possiamo dire all'epoca, certo, certo. Decisamente, cioè, non dimentichiamo che gli Shadows sono stati il gruppo che ha ispirato il sound dei Beatles. È vero. Sì, è verissimo. I Beatles hanno usato appunto questo sound delle due chitarre, basso e batteria, proprio perché anche loro erano dei fans degli Shadows. Benissimo, allora, visto che c'è un panorama ben ampio di musica da ascoltare, vogliamo già cominciare con un pezzo? Ma io direi cominciare con quello che poi è diventato un po' il nostro biglietto da visita, insomma. 1972, Gioco di Bimba. Saluta Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come d'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno spiando. cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro. Nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada. Un uomo di pezza invoca il suo santo. Con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così. Io non volevo svegliarla così. La la la la la la la la la la la la la la. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo era Gioco di Bimba del 1972, tratto da un LP che si intitola L'uomo di pezza. Uomo di pezza. Sì, esattamente. Uomo di pezza. Sì, che tra altre cose ha avuto anche un buon successo anche in Giappone. È stato quando il Giappone ha cominciato a parlare di voi. Beh, sì, il Giappone poi negli anni a venire, diciamo che è stato un paese che ha seguito molto il progressivo italiano. E quindi Le Orme, PFM, Banco, Osanna e tanti altri. Insomma, noi con quel disco lì, Uomo di pezza, abbiamo preso il nostro primo disco d'oro, che quindi con grande soddisfazione. All'epoca quando si vendeva come disco d'oro? Ma 100.000 copie. 100.000 copie. Sì. Adesso bastano molto meno, esatto, credo. Sì, decisamente. Siete in classifica con molto meno. Tra altre cose, a proposito di progressive, si dice che l'Italia abbia avuto modo di insegnare anche molto all'Inghilterra, al Regno Unito. Ma non è che abbia insegnato qualche cosa, diciamo che il pubblico italiano aveva una tale preparazione, di quegli anni intendo, perché adesso le cose sono un po' cambiate, aveva una tale preparazione musicale che è stata la nazione, l'Italia, che ha scoperto addirittura dei gruppi che in Inghilterra non conoscevano, cioè gruppi inglesi sono stati scoperti dall'Italia, che poi sono tornati nel loro paese, certo, e hanno fatto successo. Faccio alcuni nomi: sì, Genesis, certo, Gentle Giant, Van der Graaf Generator e tanti tanti altri. Decisamente. Uomo di pezza del 72, Aldo, è un inizio del capolavoro progressi del 73, Fellone e Sorona, c'hanno già i presupposti per crearlo? Ma no, credo di no, perché diciamo che quando ci siamo messi per registrare Fellone e Sorona, diciamo che l'idea non era ancora in embrione. Ho capito. Ecco, quindi la cosa è stata ponderata, diciamo, in un secondo, durante la registrazione praticamente. E quindi, però, insomma, voglio dire, il fatto del progressivo nel senso di musica, come dire, articolata, sì, eccetera, e diciamo che lo abbiamo sempre avuto fin dall'inizio, ecco, già dai tempi di Ad Gloriam. E che era un disco meraviglioso, il primo concept album, quasi, non dico il primo, ma sicuramente uno dei primissimi concept album della musica italiana. Beh, sì, credo che Ad Gloriam sia stato un disco molto importante per la musica italiana, anche se veniva da un periodo beat, diciamo, bello tosto. E abbiamo venduto pochissime copie, sì, perché, come dire, non c'è stata quella sintonia, diciamo, tra l'artista e il pubblico, e il pubblico. Però dopo dal 70-71 in poi c'è stata questa sintonia, insomma, e quindi le cose poi si sono sviluppate. E Giampiero Reverberi, che importanza ha avuto, Aldo, un uomo di pezza in collare, soprattutto in Fellone Sorona? Beh, diciamo che credo che Reverberi sia stato un po' quello che George Martin è stato per i Beatles. Quindi è un, come dire, un produttore che ha cercato di prendere le cose migliori che i Beatles scrivevano, in quel caso. In questo caso voi. E nel caso nostro, appunto, ha fatto un lavoro, come dire, di cucitura, sì, chiamiamola così. Ci ha dato dei consigli, per esempio, e noi non conoscevamo, che ne so, non sapevamo che cos'era una fuga a quattro voci, non sapevamo cos'era un canone, anche se in embrione, come dire, ci veniva spontaneo fare certe cose. Benissimo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa non è solamente una puntata da sentire e anche da vedere attraverso le nostre webcam, che sono tutte per Aldo Tagliapietra, che abbiamo qui ospite in studio in diretta in questa serata. Quindi, per semplificare la vostra ricerca in internet, potete andare nel nostro sito, che è www.bluradioveneto.it, andare nella notizia riservata ad Aldo Tagliapietra e cliccare proprio dove c'è scritto segui la diretta video. Aldo, Gioco di Bimba era il singolo, però il retro avevate un altro pezzo da 90, Figure di cartone. Sì, Figure di cartone è stato anche quello un brano molto interessante, soprattutto per il fatto che parlavamo di una pazza, di una donna, insomma, che è stata rinchiusa in un manicomio. Quindi stiamo parlando del periodo dei manicomi, eccetera, eccetera. La famosa legge. Noi abbiamo sempre, come dire, osservato quello che ci succedeva attorno, quindi cercavamo di raccontarlo. Per esempio, su Morte di un fiore abbiamo raccontato la morte di una ragazza per overdose, e credo che sia stata una delle prime addirittura. E appunto il fabbricante d'angeli, che parlava delle megere con gli aborti, eccetera, eccetera. Quindi Figure di cartone, insomma, l'argomento era i manicomi. Certo, certo. Poi magari la facciamo, quindi... Ben volentieri, un pezzo bellissimo. Sì, abbiamo parlato di tanti pezzi, non ci resta che scegliere quello per cui continuare la nostra trasmissione live. Ecco, possiamo far ascoltare Frutto Acerbo, che è bellissimo. Un'altra bellissima ballata, quindi lo faccio con chitarra e piede e scarpa, che perfetto. Spero che si senta, così fa un po' di percussione. Fa un po' di percussione. Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sotto il letto il diavolo cantava già vittoria, e nel buio la paura prima di dormire. Per il primo giuramento che ho strappato al sole, a primavera il sasso nello stagno che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore, frutto ancora acerbo. E l'estate a sera via di corsa all'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda. Nel silenzio verso casa la sua mano triste, e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori. Io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Venne poi l'inverno dietro il sole grande bianco. Quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno. Dissi sincero, non lo voglio fare, ma la pregavo di restare per un minuto solo. Come non l'hai mai sentito? Blu, Blu, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una buona serata a tutti e benvenuti ancora in frequenza. Siete su Blu Radio Veneto nella programmazione serale di Blu Radio Sera, ancora con Flavio e Maurizio, con un ospite davvero eccezionale in questa serata. L'avrete ascoltato cantare rigorosamente in diretta e ancora nuovamente benvenuto ad Aldo Tagliapietra. Posso dirti una cosa, Aldo? Sì. Come del disco? Non è cambiato nulla! Questo è un pezzo del 74, non è cambiato nulla. In questo momento stiamo registrando un secondo unplugged. Esattamente, non è cambiato sì, nulla. Sì, sì. Questo è ti ringrazio, ad ogni modo sai che non sono come meno male volesse il cielo, capito? Ecco, quindi... Questo è tratto da Contrapunti del 74 e c'è un discorso su Contrapunti, ha due interpretazioni. Ad... Sì. È il brano Contrapunti, l'album. Sì, beh, Contrapunti nel senso che voleva, è il nostro disco più classicheggiante, diciamo, quindi ci sono anche dei brani strumentali, uno si chiama appunto Contrapunti, un altro si chiama Notturno, okay. Ecco, mi viene in mente. Quindi poi molte canzoni hanno delle parti strumentali abbastanza elaborate e quindi abbiamo chiamato Contrapunti giusto per una contrapposizione, no? Per far capire appunto che insomma la musica classica aveva messo un po' il suo zampino, ecco. Esattamente nel vostro e poi che è aumentato poi il discorso della musica classica. Che poi noi siamo sempre stati poi dei fans, come dire, della musica classica. Certo, noi certo. Abbiamo sempre ascoltato soprattutto sinfonica, quindi conosciamo molte cose della musica sinfonica, insomma, soprattutto russa. A me personalmente piace. Come mai la musica sinfonica russa? Non lo so, sai, Mussorgsky, Prokofiev, non lo so. C'è qualche zampino di Keith Emerson qua? Ma Keith Emerson, anche quello. Keith Emerson, anche se molti dicono che ha, come dire, svenduto come dire, la musica classica eccetera, diciamo che attraverso di lui molti ragazzi giovani hanno scoperto Mussorgsky, poi per esempio Mussorgsky, qua a disposizione chiaramente. Stiamo parlando dei tempi dei Nice o degli Emerson Lake and Palmer. Sì, ai tempi dei Nice Emerson suonava solamente musica classica, quindi aveva fatto conoscere Sibelius, certo, per esempio, con Carelia Suite e molte altre cose, e quindi diciamo che noi ci siamo ispirati un po' a quei Nice lì. Ho capito. Poi è successo che Emerson, Lake and Palmer si sono messi assieme, hanno fatto delle cose più commerciali. Però in realtà i Nice già facevano delle cose interessanti. Sì, molto belle, i concerti brandeburghesi. Certo. Anche perché all'epoca di Emerson, Lake and Palmer le orme venivano un po' abbinate a questo gruppo. Ma sai, gruppo i giornalisti no? Hanno bisogno di etichette, di scrivere cose. Sì, bisogno di far Bartali, coppie e Bartali, certo. Quindi Beatles e Rolling Stones. Sì. In realtà i Beatles e Rolling Stones sappiamo tutti che erano amicissimi. Certo. E addirittura sono stati loro, George Harrison in particolare, che ha fatto firmare il contratto con la Decca ai Rolling Stones. Quindi sono invenzioni giornalistiche. Si devono vendere i giornali, quindi chiaramente si deve essere fare così. Infatti. Quindi hai parlato di Contrapunto come un album che si avvicina alla musica classica in una certa maniera, chiaramente. Sì, ma una musica classica. Poi sai, voglio dire, adesso potrei anche, come dire una cosa abbastanza forse non molti sono d'accordo, ma in realtà il progressivo è diventato un po' la musica classica del rock. E infatti va riproposto tale e quale, è una musica che ha bisogno di dinamica, per esempio, come ha bisogno la musica classica di dinamica, momenti in cui si suona più piano per capirci, poi si suona più forte, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molte analogie con la musica classica. Credo che comunque il progressivo, insomma, voglio dire, poi ci vuole una certa preparazione tecnica per poterlo suonare, quindi insomma il progressivo io lo definirei, magari esagerando, ma un po' la musica classica del rock. Del rock, praticamente. Bene, allora ricordiamo anche il nostro numero di SMS 346-2320033 se volete mandare un messaggino per commentare qualcosa della trasmissione. Ricordiamo che siamo sempre con Aldo Tagliapietra, stiamo presentando insieme quello che è il suo nuovo lavoro che si intitola Unplugged. Aldo, a te cosa vuoi fare adesso? Allora, vuoi suonare? Niente, si parlava prima di Ferrona e Sorona. Certo. Su Ferrona e Sorona c'è una ballatina, che parla appunto di Ferrona, questo pianeta allegro, eccetera, eccetera. Ecco, questo episodio, chiamiamolo così, musicale, piaceva moltissimo a Peter Hamill. Ero Pitarani, ero innamorato di questo, di questo, di questi questo tre giro. Accordi, sì. Insomma, ecco, ed è lì che è scattato l'idea di la proposta a lui, infatti, di che se un domani avessimo registrato una versione in inglese, lui voleva fare i testi, avrebbe fatto i testi, insomma, si chiama Felona. Una luce chiara si affaccia lentamente, offre la visione di grandi bolle bianche, la gente che le abita vive un nuovo giorno, una nuova festa, oggi come ieri, non ci sono segreti nelle sfere trasparenti, si specchiano nell'aria, si contagiano la gioia, limpidi e sereni volano i pensieri, le donne e le cicale discorrono d'amore. Chitarra e piede. Le sfere di cristallo si muovono col vento, scorrono le valli, rimbalzano sul mare, ruotano leggere nel sorvolare i monti e lasciano una scia come una cometa. Quando cala il sole e il vento si riposa, sfermano le sfere, formano un villaggio, la gente si ritrova e si corre incontro per un'altra festa mentre muore il giorno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo era Felona, tratto da quel concept album del 1973, Felona e Sorona, dove ci sono questi due pianeti contrapposti, il primo che porta felicità e piacere, l'altro che porta appunto il dispiacere, la tristezza. Cosa possiamo dire di questo album? Che ha fatto, cioè, molti critici, giustamente, adesso non per citare i giornalisti, ma molti critici hanno detto questo è stato l'inizio del progress italiano al 100%. Cosa dici? Sei d'accordo? Ma credo che l'inizio del progress italiano sia decisamente prima? Un po' prima, sì, con Collage, ma in realtà non è che noi siamo stati i primi a inventarlo, cioè nel senso che lo facevano tutti i gruppi, ecco, per esempio c'era PFM che si era appena cambiato il nome, sì. da quelli è passato a PFM, poi c'era il Banco che dalle esperienze aveva messo appunto il Banco del Mutuo Soccorso, cioè, facevamo tutti un po' quel genere lì, poi diciamo che noi siamo stati un po' fortunati ad essere usciti per primi col disco, questo è successo in primavera del 71 e già a settembre-ottobre già le case discografiche, gli avvoltoi, avevano già fatto i contratti con i vari gruppi, che non era uno dei nomi dei gruppi che andavano di moda in quel periodo. No, perché i gruppi con il nome di animali erano negi anni 60, erano un po' prima, ecco qua. I corvi, i camaleonti. Sì, quindi hai detto giustamente quelli delle case discografiche, immediatamente fiutato il discorso e via. Io ho sempre chiamato i biechi discografici perché insomma ho visto cose allucinanti, cioè, mi ricordo una volta che avevamo registrato dei nastri, insomma, che però non volevamo che uscissero come disco, ma bensì magari come bootleg a un prezzo, come dire, accessibile eccetera eccetera, e loro hanno fatto di tutto perché questi nastri uscissero come un disco ufficiale e a prezzo pieno, e si chiama Sarebbe in Concerto, sì, delle sì, ore del 70 3,74 insomma. Ecco, quindi voglio dire, sono sempre lì che cercano, insomma, di speculare su tutto e su tutti. Questo grande, è stato un grande successo, però Felonious al di là di tutto, è stato un grosso successo. Questo disco? Sì, Felonious Orona, sì. Felonious Orona, a parte che è uscito dopo 40 anni nella versione, sì, anche in inglese. Esattamente, il famoso... C'è un digipack che è uscito da 15 giorni, 20 giorni, ci sono le due versioni, e è entrato addirittura in classifica al 79esimo posto, appena uscito, insomma, praticamente. E quindi questo è un po', come dire... Da una parte sono molto felice di questa cosa qui, però dall'altra mi viene da fare una considerazione. Quando ci sono questi ritorni, questo vuol dire che riempiono certi vuoti. Ah, è questo il problema. E io vorrei che questi vuoti non ci fossero, in realtà. O venissero colmati in un'altra maniera. O in un'altra maniera, molto più attuale, per esempio. Certo. Stiamo parlando con Aldo Tagliapietra, l'avrete sicuramente riconosciuto, componente storico e socio cofondatore del gruppo Delle Orme, che in questa serata è venuto a proporci il suo ultimo lavoro, una versione acustica di alcuni suoi pezzi famosi, anzi di tutti i suoi pezzi famosi, perché voglio dire di 24 opere prime stiamo parlando in questo momento. Vorrei aggiungere questo, che questo doppio CD non è, diciamo, la mia ultima fatica dal punto di vista creativo, nel senso che questi sono, come dire, questi sono due CD che, così, per omaggiare in qualche modo un po' la carriera, eccetera, però io ho in programma di fare un disco di inediti. Che diciamo che è la cosa che ci tengo un po' di certo, più, beh, chiaro, così discorso. Sì, c'è già un titolo che sta girando da qualche sì, mese. C'è un titolo, si chiama Nella pietra e nel vento. Ecco, quindi abbiamo già il titolo. Sì. Poi, confidenza per confidenza, abbiamo anche la copertina che me l'ha preparata Paul Whitehead. Niente po' di meno, giusto, che, per rimanere certe in tema cose. Ecco, adesso però c'è la realizzazione da fare, e lì ci sono sempre di mezzo dei discografici, sì, che bisogna in qualche modo... Ma per darci un'anticipazione, uscirà a settembre, ottobre? Ma no, io spero per il periodo di Natale. Ah, okay, cioè, sarebbe molto bello per me che a Natale potesse essere nei negozi. Allora ce lo farai sapere, perché è obbligatorio, certo, passare anche di qua. Benissimo. Certo. Allora, ascoltiamo un altro pezzo sempre tratto, sì, da questo lavoro Unplugged. Sì, c'è una canzone del 1969, stavo per sbagliare anno, però mia moglie mi ha guardato un occhio critico, perché è la canzone che ho registrato durante il viaggio di nozze. Si chiama Irene. Irene, vorrei che in fondo agli occhi miei ci fosse per te l'amore che non c'è. Questo vorrei, devi credere a me. Irene, non sai che cosa non farei per stare con te, per darti i sogni miei. Come vorrei, ma è tardi ormai. Irene mia, tu butti via i giorni tuoi. Irene mia, io vado via dai sogni tuoi. Piangerai, ma un giorno vedrai che mi ringrazierai. Dimmi che sei già lontana ormai. Irene mia, tu butti via i giorni tuoi. vado via dai sogni tuoi, da, qui c'è un coretto, la la la la la la la la la la la la la la la. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'avremmo fatto volentieri io e Maurizio il coretto. Infatti, sì, era un invito il mio, assolutamente. Assolutamente. Peccato che le campane siano più intonate di noi, ecco, in questo caso. Bene, allora, Irene era un pezzo del 1970, 69, ancora prima del progressive, quindi con l'Aurora. Sì, l'Aurora è l'unica canzone che non abbiamo scritto noi nella nostra lunga carriera. È stato un brano che ci è stato proposto in un momento in cui i gruppi, soprattutto inglesi, usavano molto l'orchestra, vedi Deep Purple, eccetera, eccetera. E siccome noi eravamo in giro che suonavamo, eravamo abbastanza impegnati, abbiamo detto: senti, Giampiero Reverberi, organizza un'orchestra e cerchiamo di farlo anche noi con l'orchestra, certo. Quindi facciamo come hanno fatto i Deep Purple, come hanno fatto anche i Rolling Stones a suo tempo, e così è stato fatto. Poi io sono andato in sala per metterci la voce, e l'Aurora, appunto, era un pezzo di Mogol Prudente. Esattamente, proprio così. Permettimi di dire una cosa: ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che è qua, e David Bonato, un altro personaggio che tu conosci molto bene. Irene del 1969 è stato inciso per la etichetta di Carlo Alberto Rossi, la CAR, vero? La CAR. Prima. Ancora Ad prima. Gloriam. Ad Gloriam era, noi abbiamo la Car Jukebox. La Car Jukebox. Sì. Ma Irene era in Ad Gloriam? No, Irene era una canzone a parte, un 45 praticamente, ed è stato registrato per la Telerecord, che era una piccola etichetta che aveva assorbito la Car Jukebox di quei tempi, sì. E poi questa Telerecord a sua volta è stata assorbita dalla Phonogram. Ah, perfetto. Ricordiamo, ecco, che il lato B, non meno importante, era la canzone Casa Mia. Casa Mia, Casa che mia. È una canzone molto più bella dal punto di vista estetico, diciamo, di Irene. Sì, ma Irene, però Irene è immediata, invece sì. L'altra, sì, infatti, aveva bisogno di un ascolto più attento e sì, più, come dire, da intenditore. A noi piaceva di più, infatti, Casa Mia. Solo però... che in quel momento là sono sempre i discografici che scelgono lato A o lato, sì, B, almeno in quei tempi lì. Poi sì, abbiamo cominciato a scegliere noi, esatto. Poi però, si comincia a avere un po'... Però nel momento in cui loro hanno visto che facevamo quello che volavamo e vendevamo i dischi, ecco, certo, questo... Certo, perché ricordiamo che come gruppo voi siete stato sempre un gruppo pieno di interesse per la musica ricercata e, come per dire, sperimentale. Ma noi siamo nati come gruppo, usiamo questa parola magari un po' abusata, di ricerca in qualche modo. Quindi se tu guardi i nostri, noi abbiamo fatto una ventina di CD, insomma, di long play, come si diceva, sì, in quegli anni. E ognuno diverso dall'altro, quindi questo vuol dire che insomma c'è questa voglia di ricerca da parte, appunto, del gruppo, del musicista, eccetera, mentre molto spesso molti gruppi, una volta individuato, come dire, un genere, un canale, lo percorrono per 20-30 anni a scapito ovviamente della qualità, certo, cioè, chiaro. Bene, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo sempre piacevolmente conversando con Aldo Tagliapietra. È venuto qui per presentarci la sua ultima produzione, due CD, un cofanetto, si intitola Unplugged, sono 24 canzoni, tra le più belle canzoni del secolo scorso, si può dire. Sì, 1800. Sì. No, ci stiamo riferendo al 1900. Dal 1960. No, si può dire. Ecco, si fa un po' strano, però. C'è comunque anche qualche pezzo che riguarda il più recente 2008, se non sbaglio, all'interno. Mi riferisco al Viaggio. Ma il viaggio è un lavoro che ho fatto nel, dunque l'ho scritto nel 96 ed è uscito 10 anni dopo. Perché? Perché non ho trovato un discografico disposto e quindi poi alla fine, dopo 10 anni, insomma, ho deciso di pubblicarlo io. L'ho fatto in un numero limitato di copie, 999, come si usa nel, nelle cose serie. Ed è un lavoro a cui io ho sempre tenuto molto, mi piace come è stato fatto, realizzato. Ho usato il sitar, ecco, che quindi ritorniamo al discorso della ricerca dello strumento. Della ricerca, sì. Nel 96 ho conosciuto Buddhaditya Mukherjee, che è uno dei più grandi sitaristi indiani, di cui tu solo sai dire il nome correttamente. Sì, ci ho messo 6 mesi però. sì. Ci ho messo 6 mesi e niente, io poi questo ho avuto appunto questa opportunità di trovare appunto un maestro che mi insegnasse, anche perché io avevo già questi strumenti, ce li avevo già in casa come soprammobili, diciamo. E poi con l'occasione ho cominciato a studiarli nella maniera giusta, diciamo, e quindi poi sono riuscito appunto a realizzare questo viaggio, il viaggio che non si trova nei negozi, bisogna, come dire, no, generalmente lo si trova durante i concerti, ecco, sai, durante i concerti adesso c'è insomma il bancarello di merchandise, sì. Ecco, lì si trova. Poi a proposito di concerti, c'è questo sabato 23 luglio che vorrei un attimino promozionare, Ronco all'Adige, piazzale autotrasporti Ferrari, sabato 23 luglio, dove farò uno dei miei, diciamo, concerti standard, chiamiamolo, sì, così, e dove appunto farò anche 3 brani del viaggio con il sitar. Ricordiamo anche quelle che sono le altre date che ti vedono protagonista. Quindi il 3 luglio sarai a Scardovari, provincia di Rovigo. Poi ancora, abbiamo già ricordato l'appuntamento del 23 luglio, poi il 6 agosto a Gaeta, Latina, poi ancora il 3 settembre a Spinea, Venezia, allo stadio Allende, sì, e poi ancora il 12 settembre a San Stino di Livenza, nell'area De Gasperi. Esatto, quindi per il momento sono state fissate queste date, però ci sono molte trattative, quindi mi auguro che diventino almeno il doppio, insomma. Quindi, vabbè, andando a curiosare nel tuo sito, che è davvero bello tra le altre cose, quindi www.aldotagliapietra.it, si possono conoscere anche le date dei prossimi concerti, anche aggiornate. Certo. Benissimo, allora spazio per un altro cosa. Brano. Cosa ci proponi? Allora, se c'è qualcuno che mi fa il coro, proverei a azzardare. Abbiamo, senti, che abbiamo il gruppo che suona dopo di te, se vuoi. Abbiamo il gruppo che te lo prestiamo. Te lo prestiamo, caso. Se vuoi. Sono gli Aedi che vengono da Macerata, approfittiamo per salutarli. Va bene, allora io attacco, poi vediamo poi chi vediamo sia, va finito. Certo. Allora lascio aperto il microfono di qua. Stammi vicina, dammi la mano, stasera ti vedo diversa, i tuoi occhi hanno un altro colore, in strada c'è aria di festa, ora la gente pensa all'amore e senti l'estate che torna. Sapore di cose lasciate al passato, senza rimpianto, senza dolore, senti l'estate che torna, senti con tutti i suoi sogni, senti l'estate che torna da noi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era Ad Gloriam del 1969, se non sbaglio, con Senti l'estate che torna. Esattamente, esattamente. 1968. 68. Sì, sì, sì, sì. Ho sbagliato di un anno, di un tutto anno. Adesso mi... ma è importante perché adesso dire, mi 68, taro, Dire 68, dire 69 è diverso. Ecco, 68 sono successe delle cose. Sì. A microfono spento abbiamo detto, abbiamo cantato tutti questo pezzo. Chiaramente, giustamente Alberto dice a microfono spento, sempre a microfono spento. Però l'abbiamo cantato tutti, il ritornello l'abbiamo. Come ci fa fare Aldo un ritornello simile che azzecca immediatamente? Ma credo che nessuno lo sappia. Uno ci prova, come dire, è una specie di terno all'otto in qualche modo. Quindi non c'è una formula. E perché se ci fosse una formula, tutti sappiamo che avremmo ogni giorno canzoni bellissime, eccetera. Io ho sentito recentemente un cantante molto famoso, non faccio nomi, che ha fatto un disco orrendo secondo me, però sta vendendo da matti. Perché? Perché c'è il nome, quindi abbiamo capito. Ma, vabbè, sì, penso di aver capito. Capito. Oh, comunque non importa. Non ho mai sentito una canzone così brutta. Una cosa voglio chiederti, Aldo. Questo mi pare che sia stato, oltre anche Irene, anche questo pezzo è stato fatto in inglese, è vero? Sì, abbiamo fatto una versione in inglese che non è mai uscita. Ah. Attenzione, negli anni 60 avevamo preparato dei pezzi per l'eventuale mercato inglese, ma evidentemente era troppo presto e sono rimasti lì. Sono rimasti così, dei provini. Continuavano, diciamo, le importazioni dall'Inghilterra con brani tradotti in italiano, ma per gli italiani tradotti in Inghilterra... No, difficile. Pensa che, a parte qualche episodio tipo, faccio Modugno, voglio dire, è stato diventato famoso in America con il suo Volare cantando in italiano. Recentemente abbiamo avuto Boccelli con Te partirò, cioè, ma a parte questi episodi un pochettino... sì, anche isolati... Diciamo che la musica italiana non è che abbia mai avuto degli apprezzamenti all'estero, anzi questo però non è successo con il progressivo, perché il progressivo invece ha inventato delle cose che sono tipiche italiane e quindi abbiamo avuto tuttora, voglio dire, abbiamo degli estimatori negli Stati Uniti, in Giappone, in Sud America, in Messico, esatto. Siamo stati 4 volte noi, pensa tu. Abbiamo perfino visto Quetzalcoatl, il serpente piumato che girava. Tra altre cose, tu citavi prima Con te partirò, ha lavorato proprio con te lo scrittore? Sì, l'autore di questo pezzo. Francesco Sartori era uno delle orme, insomma, ha lavorato con noi 6 anni, quindi, e poi ha detto, un giorno ci ha guardato negli occhi e ha detto con voi partirò, ha detto, perché originalmente era con voi partirò, poi è diventato con te. No, noi siamo stati molto contenti che lui abbia scritto questa canzone, che abbia fatto successo in tutto il mondo e quindi ha avuto la nostra benedizione. E quindi un'ulteriore conferma che si nasce dalla classica per fare un po' di progressivo serio. Ma sì, bisogna avere, ripeto, come si diceva prima, bisogna avere una preparazione musicale, insomma, diciamo, discreta alle spalle, e diciamo che il classico ovviamente è quello che ti dà le garanzie migliori. Ricordiamo che oltre alla trasmissione in diretta audio c'è anche la diretta video tramite le nostre webcam, quindi collegatevi al nostro sito internet bluradioveneto.it e cliccate sopra il segui il video all'interno della notizia dedicata ad Aldo Tagliapietra. Maurizio. Sì, Aldo, sì. Io aspetto che un altro pezzo, Aldo, a tuo piacimento. Ma io proporrei, mi è venuto in mente adesso, proporrei la ballata, perché per me sono tutte ballate, insomma, no. Anche perché, voglio dire, la formula canzone è una cosa, e queste qua invece che facciamo noi sono tipicamente ballate. Sì. Ce n'è una che è nata nel 75 a Los Angeles e parla del vento, cioè il vento che durante il mese di settembre-ottobre soffia dall'entroterra, quindi dal deserto, verso la città di Los Angeles, ed è un vento che nei secoli scorsi aveva guidato, era amico dei pionieri perché li ha guidati verso la città, verso la terra promessa, eccetera. Ecco. Allora, questo vento si chiama Santana, e negli Stati Uniti ci sono molte cose che si chiamano Santana. Vero. Il vento, poi c'è quello che suona, sì, qualche volta sì. Poi ci sono delle bistecche, mi chiamano bistecca Santana, benissimo. Ecco, e quindi amico di ieri. Vento d'autunno, intriso di sabbia, posi il tuo velo sulla città. Il deserto è la tua culla. Non conosco la tua età. Porti il ricordo di antichi pionieri, spinti da un sogno di libertà. Hai disperso i loro canti, li hai guidati verso il mare, a una nuova realtà. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Vento d'autunno, amico di ieri. Oggi nessuno si cura di te. La tua voce che si alza toglie il sonno che riposa. Sporca solo la città. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed era il 1975, in questo caso era Smog Magica, diciamo, il titolo del disco da cui era tratto questo amico di ieri, e c'era anche l'inserimento di un chitarrista che è stato poco con voi, con te, Aldo. Sì, sì. L'inserimento di Tollo Marton, sì. Valentissimo chitarrista di rock blues, diciamo, trevigiano, poi vincitore del premio Jimi Hendrix, eccetera. Sì. E niente, è venuto con noi appunto a Los Angeles, ha registrato il disco, poi ha sentito il bisogno, come dire, di ritornare alle sue cose, diciamo, al suo genere, e quindi è stato sostituito subito dopo da Germano Serafin, è giovanissimo e valentissimo strumentista, polistrumentista direi, E quindi con Germano poi abbiamo continuato per altri 6 o 7 anni, finché poi anche Germano come dire, si era innamorato del violino, aveva scoperto il violino, eccetera, e ha abbandonato un attimino la musica rock, diciamo, per dedicarsi alla musica classica. Infatti è entrato poi nell'orchestra comunale di Treviso. I famosi giornalisti, che sono sempre molto critici e non sanno suonare soprattutto, no? Dicevano che in questo album Smog Magica si era perso un po' lo smalto progressive per andare verso il rock. In questo caso avevano ragione. Avevano ragione, perché dopo aver fatto appunto dopo Contrappunti, quindi questi album un po' classicheggianti, anche abbastanza come dire elaborati, insomma, avevamo sentito la necessità di riprendere in mano insomma le sonorità rock più tradizionali, più semplici, eccetera. Quindi anche l'inserimento di Tolo Marton prevedeva appunto questo cambiamento. Insomma, come si diceva prima, insomma, bisogna cercare strade nuove continuamente. Sì. E poi, sai, quando uno come dire, se uno parla molto, è chiaro che ha più probabilità di sbagliare di uno che parla non parla. Quindi, certo, ecco, quindi noi abbiamo percorso molte strade, alcune sono riuscite bene, diciamo, altre meno, però l'importante è percorrere. E come mai Los Angeles, Aldo? Ma la cosa era iniziata in Inghilterra l'anno prima con Verità Nascoste. Avevamo in programma di fare un disco con la produzione di Vangelis. E Vangelis abitava a Londra, aveva uno studio di registrazione dove lui realizzava tutte le sue colonne sonore, le più conosciute, insomma. E quindi ci siamo portati lì, siamo andati a Londra. E in realtà poi Vangelis, che è un tipo, come dire, un po' artistico, sì. Insomma, l'abbiamo visto due volte, poi è sparito, non l'abbiamo più visto, bene, allora abbiamo continuato il nostro lavoro da soli e così. Ecco, lì abitava il nostro caro amico giornalista, fotografo, Armando Gallo. Esatto, sì. E poi l'anno dopo Armando Gallo si trasferì a Los Angeles. Ecco che a quel punto lì abbiamo detto: boh, adesso, se visto che abbiamo fatto Londra, andiamo a Los Angeles. E poi, tramite appunto, certo, questo Armando Gallo che appunto che lavorava là, e poi abbiamo fatto il disco di Parigi. Quindi chiamiamo il disco inglese, il disco americano, il disco francese. Dopo questa trilogia, chiamiamola così, straniera, abbiamo deciso di registrare un disco in casa ed è uscito Florian. Esatto. Dove abbiamo usato, certo, strumenti acustici, classici, eccetera, eccetera. Ecco, altro esperimento, sì, altre strade nuove, capito? È stato un po' criticato quel giorno, quella volta, l'esperimento, perché molti erano innamorati del vostro sound e voi avete cercato una via diversa, totalmente diversa. Sì, stavolta, sì. Pesantemente diversa nel senso positivo. Noi capiamo il fatto che, come dire, il fan preferirebbe che non ti allontanassi troppo, certo, dal seminato, certo, diciamo. Certo. Però chi ci conosce sa che questo è più forte di noi, quindi non riusciamo a non farlo. E allora, quindi Florian è stato, sì, un ennesimo, come dire, esperimento in qualche modo. Si parlava del 75 con Smog Magica e Tolo Marton, o Marton come lo chiamavano Marton, gli americani. Marton. Sì, ecco. Ci siamo riavvicinati con Tolo qualche tempo fa, vero Aldo? C'è stato un progetto... ci hanno proposto un'agenzia di Milano che ha organizzato il Prog Fest di Roma il 5 novembre scorso. Ci hanno contattato singolarmente, perché già io con Pagliuca Pagliuca se ne andò dalle Orme 20 anni fa, quindi non avevo neanche più rapporti, diciamo. E diciamo che con Tolo un po' di più, perché con Tolo ogni tanto ci siamo trovati a suonare insieme in varie occasioni. E ci hanno proposto di partecipare a questo festival, siccome poi, sai, il festival nazionale con ospiti internazionali, tra le altre cose, molto molto insomma di qualità. Era il festival più importante che ci fosse in Italia, che fosse stato organizzato in Italia in assoluto, perché anche nel passato non è che questa qui è stata una cosa grossa. Abbiamo ritenuto che non potevamo mancare, ecco, allora abbiamo accettato e abbiamo trovato un batterista molto bravo e abbiamo fatto il festival. La nostra esibizione è andata abbastanza bene e poi abbiamo avuto richieste, quindi abbiamo fatto altri 5 concerti, ecco, quindi poi, visto che c'eravate, insomma, poi ognuno è tornato a fare si parlava cose. Prima del disco che sto facendo di inediti, quindi ognuno ha un po' le sue cose poi. Certo. Quindi vuol dire che c'è un facile abbinamento anche con altri musicisti, soprattutto se seguaci di una stessa linea di musica. Ma sì, cioè, ecco, lì al Prog Fest abbiamo suonato per esempio con David Cross, che è stato violinista storico di King Crimson. La PFM ha avuto come ospite Ian Anderson, dei Jethro Tull, capito? Ci sono stati dei bei nomi che hanno suonato con noi, ecco, appunto... Si parlava prima il rispetto della musica italiana anche da parte dei musicisti e del pubblico, insomma, straniero. Certo. Diciamo. Bene, ancora un ricordo ai nostri ascoltatori, stiamo piacevolmente conversando con Aldo Tagliapietra per la presentazione del suo ultimo lavoro, un lavoro formato da un cofanetto con 2 CD, si intitola Unplugged 1 e 2. Benissimo, abbiamo parlato. C'è una correlazione tra Smoke Magica e il disco nuovo tuo? E il pittore è lo stesso? Allora, Paul White, ecco, è questo pittore surrealista che ha fatto le prime copertine di Genesis. Lui si è fatto conoscere attraverso Trespass, copertina della Volpe, Foxtrot, esatto. E poi anche lui, inglese, della mia stessa età, stesso anno, 1945. da Londra, dall'Inghilterra, si è trasferito in America per fare delle copertine di alcuni gruppi americani. Stanno girando dei vinili. La copertina Smoke Magica, ecco, Aldo con solchi consumati. È giusto che sia così. Ecco, e quindi nel 75 l'abbiamo trovato lì, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici, lui ci ha fatto la copertina. E la copertina ha questo aneddoto, nel senso che quando siamo arrivati a Los Angeles, il giornale locale, il LA Chronicle, mi sembra che si chiamasse, aveva dato la notizia di questo gruppo italiano che arrivava a Los Angeles. Il titolo, diciamo, di questo articolo era "Le orme cercano il magico nello smog di Los Angeles". Ecco, questo è allora Paul Whitehead, che evidentemente gli piace giocare con le parole, eccetera, ha detto lo smog, il magico, smog magica, ha suggerito lui. Comunque non conoscevano ancora Marghera loro, no? No, troppo legati a Los Angeles. Marghera... Al massimo conoscono Venezia. Ecco, Venezia, sì. Tra altre cose, un bel pezzo che abbiamo sentito all'interno di Unplugged, nel disco numero 1, c'è la conclusione con Venezia Zé. Venezia Zé, sì, è una, come dire, una risposta dopo 30 anni che ho voluto dare a Pino Daniele con il suo Napoleon. Esatto. E quindi, anche perché ricordiamo, tu sei veneziano doc, ma hai più origine in quel di Murano. Sì, io sono muranese, quindi. O Muraneo, come lo chiamano? No, Buraneo. Buraneo, Buranei sono quelli di Murano. Sì. E i muranesi sono quelli di Murano, quindi il vetro, ecco, il discorso del vetro. Sì, no, anche la tua famiglia veniva da... Se trovavo le parole, dopo se le trovo magari le accenniamo. Accenniamo, certamente. Bene, allora un altro pezzo dal vivo, Aldo. Sì, allora si parlava prima invece di figure di cartone. Sì, certo. Ecco, allora direi, proporrei questa. Mondo strano tutto tuo, fatto di figure di cartone e di tante bambole di stoffa vivi tu. Vivi chiuso quelle quattro mura. Non ricordi chi ti ci ha portato e conosci solo chi ora gioca con te. Tu non hai le ansie del futuro, per te il tempo non ha più valore. Ciò che hai fatto ieri tu domani rifarai. E nei tuoi sogni parli con gli angeli, in un cerchio chiuso di pazzia. Hai perduto la tua giovinezza come un fiore tolto dal suo ramo a primavera. Dai un nome a tutte le farfalle e confessi al vento i tuoi amori. Danzi sola nei corridoi vuoti quando è sera. Stringi forte al petto il tuo cuscino e sul muro bianco si disegna il profilo di una donna con il suo bambino. E così felice ti addormenti. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era Uomo di Pezza del 72, già avevamo avuto modo di sentire un altro pezzo, Gioco di Bimba, e questo a seguire, Figure di Cartone. Sempre con noi Aldo Tagliapietra, dal vivo fino alle 22.30, siete nella programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. In Uomo di Pezza, Aldo, avete usato per la prima volta il synth, è così? Sì, noi volevamo in ogni disco far conoscere il suono di un nuovo strumento, perché era un momento in cui nascevano degli strumenti, quindi il mini Moog, il Moog, il Mellotron, l'Eminent, ecco, tutte cose novità, diciamo. E quindi nel 72 è uscito il mini Moog, appunto abbiamo cercato di comprarlo e lo abbiamo inserito nel disco. Nel disco, chiaramente, è stata la prima mentre volta per esempio in collage, sì, c'è una specie di tentativo di ottenere con un generatore di frequenze, quindi abbiamo preso un tecnico il quale ha costruito questo generatore di imitare, come dire, il mini Moog che già stava usando Emerson. Ma in collage è stato un tentativo anche forse coraggioso di usare un pezzo all'inizio strumentale, come mai? Ma questo faceva parte del, come dice, dei nostri progetti, cioè volevamo che ci fosse almeno un pezzo strumentale in ogni disco. Ecco, infatti se tu guardi, sì, da collage, Uomo, sì, di Pezza. Però avete iniziato con collage praticamente la, sì, nuova, sì, era della vostra band, con un pezzo strumentale. Infatti il fatto che fosse strumentale poi ha creato anche il fatto, ci sono stati dei programmatori radio che pensavano che fossimo un gruppo inglese, ecco, in realtà. perché il sound, insomma, era abbastanza inglese. Dubbiamente. E quindi così. Scusate, avevo il microfono abbassato. C'è un pezzo che mi ha colpito in particolar modo all'interno dell'Unplugged nel disco numero 2. Si intitola Tat Tvam Asi, quindi tu sei quello. Tu sei quello, sì. Tu sai che, cioè, si parlava prima del sitar, la musica indiana. Ecco, bisogna dire soltanto brevemente due parole che la musica indiana, come d'altronde nel lontano passato nostro era una musica, quindi gregoriano per intenderci, la musica era rivolta all'assoluto. Nella musica indiana classica, appunto, tutta la musica è rivolta all'assoluto. Quindi questo mi ha portato, cioè lo studio del sitar mi ha portato ad allargare, come dire, l'ottica, interessarmi di filosofie indiane, del come, il perché, eccetera, e quindi scoprire, come dire, che noi facciamo parte del tutto. Certo, quindi, ecco, quindi noi siamo quello. Quindi, capito? Diciamo dottrina buddista, induista o anche animista? Ma sì, anche animista, anche, cioè, sono varie etichette, insomma. Una cosa è sicura, ecco, che noi facciamo parte di un tutto, e quindi ecco che Tat Vam Asi. Sì. Tu sei quello. Qual era il pensiero invece di qualche tempo fa? La religione veniva tenuta in un secondo piano, mentre adesso magari c'è uno sviluppo spirituale ben più acceso. Ma sai, io credo che molti di noi vadano un attimino al di là delle religioni. Che le religioni, insomma, voglio dire, questa è la mia opinione personale, ovviamente, sono bene o male state fatte dagli uomini in qualche modo, e quindi il fatto di questo animismo, appunto, di questo considerare l'universo un tutto, non fa altro che ripercorrere delle strade molto antiche, tra altre cose, e quindi, ripeto, va al di là di qualsiasi religione, perché non è neanche buddismo, se vogliamo. È una, come dire, un pensiero filosofico visto, appunto, attraverso occhi diversi. Se riesce a riproporlo con la chitarra acustica, questo pezzo? No, questa qui no, perché... Vabbè, allora, un motivo in più per entrare in possesso... Per questa qui ci vuole... ci vuole un pareggio. Ci vuole un sitar. No, invece, ecco, sì. Io ho trovato il testo di Venezia Zee. Ah, bellissimo, sì. La proponiamo, sì, sì, ecco, certo, assolutamente sì. Parlando, appunto, di origini. Sì. Va bene, eccola qua. Venezia se come una donna, coi cavei cor del mar, co quel viso da Madonna, che te fa innamorar. Iga scritto che Venezia se una sposa, che se veste de merleti de buran. Ma mi dico che a sé anche mia amorosa è il mio ieri, è il mio domani. Mi ho scritto per Venezia ste parole dedicate come un vero de Muran, perché anche se non a me guarda in viso mi parea voglio cantare. Venezia Zena colombina che se specia sul canal, ma se anche una regina che i poeti fa sognar. Iga scritto che Venezia Zena sposa che se veste de merleti de buran. Ma mi dico che a sé anche mia amorosa è il mio ieri, è il mio domani. Mi ho scritto per Venezia ste parole dedicate come un vero de Muran, perché anche se non è a me guarda in viso mi pare a voglio cantare. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccola qui, questa è la traccia numero 12 dell'Unplugged numero 1. È già la mio zio, se può dire. Venezia Zé. Ecco qua. Abbiamo sentito i commenti in diretta di Aldo, questa appunto Venezia Zé tratta da questo Unplugged, che è un cofanetto appunto di 2 CD edito da Azzurra Music e distribuito nei negozi da Artist First. Ma dicevo una cosa simpatica, Aldo, mentre al microfono spento, poi si è sentito appena il finale. Ti sembra cantare come il Nuotofolo praticamente. Sì. Cioè, per me non è facile cantare in dialetto, sembra una cosa strana, e in realtà diciamo che faccio un po' fatica, ecco, mi sembra appunto imitare il Lino Toffolo, che conosco da una vita, perché è muranese anche lui. Grande personaggio Lino Toffolo. Sì, sì. Comunque deve essere un onore per i veneziani sentire queste parole venire proprio dalla tua voce, Aldo. Sì, diciamo che la città di Venezia non è mai stata generosa, non solo nei miei confronti, ma in generale nei confronti degli artisti, diciamo. È una, come dire, una signora abbastanza ingrata. Ecco, io lo faccio capire su una frase, appunto, dove una frase che dice... Anca se non me vardo in viso, mi parea voglio cantare. Ecco, questo è un appunto. Che dici memorosa anche in mia morosa, sì, mia perché fidanzata. Io ho un amico che è talmente innamorato della sua città, si chiama Franco Maschietto, che poi è presidente degli albergatori e tra altre cose. Adesso facciamo un po' di pubblicità. Ecco, lui, per lui Venezia è come una donna. Cioè, lui è innamorato come una donna. Allora questo mi ha dato un po' lo spunto per dirlo, appunto, paragonare la città ad una morosa. In questa tua nuova esperienza Unplugged non sei solo, ti avvali di validi musicisti. Sì, ci sono con me dei giovani musicisti che io nominerò, giustamente, perché mi sembra. Allora abbiamo Aligi Pasqualetto alle tastiere, poi c'è Alessio Trappella al contrabbasso, poi ci sono io, poi c'è, aiutami, Alessandro Casagrande alla batteria, alle percussioni, Valentino Gatti alla chitarra. Alla chitarra. Sì. Quindi con questa band giri. Diciamo che questa è la band con la quale ho fatto il disco. Hai fatto il disco. E mentre nei concerti che sto facendo, che farò dal 3 in poi, a parte Aligi Pasqualetto, che è il tastierista, ho altri musicisti. Altri musicisti, praticamente. Sì. Che sono quelli che suoneranno poi anche nel tuo disco, Nella Pietra e nel Vento. Sì. Molto probabilmente. Molto probabilmente. Bene. Sì. Basta prenotarli, no? Per tempo. Sì. Benissimo. Stiamo volgendo pian pianino verso il termine della trasmissione, abbiamo ancora 15 minuti scarsi per parlare. Facciamo ora canzoni. Fare 7 canzoni. Benissimo. Noi siamo felicissimi di questo. Cosa ci vuoi proporre adesso per fare le 7 canzoni? Beh, ce n'è una che io proporrei. Dunque fa parte di un disco che si chiama Piccola Rapsodia dell'Ape, quindi esatto. Un disco poco conosciuto, anche perché è stato un momento così di transizione nostra. Ce n'è una che parla, molto spesso, argomento proibito, la morte. Insomma, quelli che scrivono canzoni o poesie, insomma, devono anche parlare di questo. Si chiama La mia bianca sposa. Se credi sia allora va bene, io non temerò. Guarda il mio albero in testa e poi abbine cura abbine cura se non pioverà. Dietro il cancello ti sento, danza di parità. Nel letto, per strada o sul palco vieni, mi troverai, mi prenderai come vuoi tu. Come sai tu. Aspetterò mentre spoglierai tutte le fanciulle estive che regalavano fantasie. Ti osserverò quando toglierai tutte quelle maschere piene di lacrime. Quante risposte libererai? Troppo non posso pensarti, forse mi brucerei. Questo segreto piacere mio, di terra fresca, di nuovi sogni che rincorrono. Che mi rincorrono. Poi entrerai dolcemente in me e rivedrò tutti i giorni miei. Ogni pensiero avrai limpido, potrò appoggiare la testa giù senza riscaldar la pietra e non mi importerà dei fuochi accesi sulla collina. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era il 1980, c'era questa piccola Rapsodia dell'Ape, una traccia all'interno di questo album, è La mia sposa Bianca, la mia che non bianca è sposa, mia, sì. Bianca sposa, che non è però inserito all'interno dell'Unplugged. No, non è inserita, ma non per un fatto, come dire, di scelta di pezzi, diciamo che è stato anche un po' casuale la scaletta dell'Unplugged, quindi molti pezzi non ci sono, ovviamente. Certo, certo. E senza andare tanto lontano a Los Angeles o da qualche altra parte in Inghilterra, questo è stato registrato proprio a Mestre. È stato registrato a casa mia, ecco, nel senso, perfetto, che io al ho, allestito, ho allestito un piccolo, sì, studio, perché avevo dello spazio, eccetera, e lì abbiamo fatto due long play, insomma due vinili. Il primo era Florian, appunto, e Piccola Rapsodia dell'Ape. Che l'ape rappresenta l'animale, però rappresenta l'universo femminile per eccellenza. Ecco, non ti... l'idea è stata di Germano Serafin di proporre il discorso dell'ape. Ecco, molto probabilmente c'era questo significato dietro. Ho capito. L'ape regina. L'ape regina, esattamente. La dea madre. Stavo cercando ancora le date da ricordare per vedere Aldo Tagliapietra e il suo gruppo dal vivo. Ricordiamo il 3 luglio sono a Scardovani in provincia di Rovigo, il 23 luglio a Ronco all'Adige, Verona, poi ancora il 6 agosto a Gaeta in provincia di Latina, il 3 settembre a Spinea allo stadio Allende e il 12 settembre a San Stino di Livenza. Ricordiamo che comunque all'interno del sito aldotagliapietre.it saranno presenti anche le prossime date per le quali Aldo si sta mettendo ancora d'accordo. Sì, ci sono delle trattative che andranno in porto tra poco, quindi aggiorneremo il sito. Benissimo. Aldo, facciamo come Elvis Costello. Elvis Costello, il pubblico chiede un pezzo e lui lo esegue. Ti chiedo, puoi farmi Marinai? È possibile? Perché no? Ecco, ok, perché da no? Marinai, 1982. Ok. Che mi importa se oggi piovera, è musica sinfonica. Quanti ombrelli che si aprono e gli alberi si bagnano. Riconosco quelle nuvole, arrivano dall'Africa. Sono piccole pozzanghere, profumano di sandalo. Pianoforti nel sottomarino, noi cantiamo per te, capitano. Siamo nati da una favola, dove il cielo non gradiva i marinari. I marinari, i marinari, i marinari. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed era un pezzo inserito nell'album Venerdì, si chiamava Venerdì, così, Venerdì, sì, Venerdì. 1982, quindi sì. Sanremo. Esatto. Sanremo, Sanremo. Sanremo, mi ricordo che in quel Sanremo lì c'era un certo Vasco Rossi con i pantaloni rossi, un paio di pantaloni rossi di, tipo blue jeans, e presentò Vado al Massimo. E fu una vittoria morale, perché non fu lui che vinse, morale, perché effettivamente fu quello che poi vendette i dischi, e da lì cominciò l'ascesa di Vasco, del grande Vasco. Sì, che insomma adesso si comincia a dubitare sulla sua grandezza, perché ci sono degli ultimi pezzi che proprio non convincono i più. Ma ho sentito, sentito dire. Sentito dire. Va bene, non si può sempre essere all'apice, insomma, ci vuole anche un momento di discesa, così per giustificare il grafico che poi va sicuramente in ascesa. Allora, qualche altro aneddoto legato a Sanremo. Mi sembra di ricordare che questo Marinai da prima doveva chiamarsi in un'altra maniera. No, lì c'è un, come dire, una leggenda metropolitana. Sempre di famosi critici musicali, giornalisti e così via. No, il fatto è che la canzone a un certo momento doveva dire inizialmente Marghera, Marghera, perché era dedicata un po' a Marghera, certo. Questo è vero, però poi ci abbiamo ripensato, come dire, abbiamo pensato che era una cosa troppo particolare, diciamo, da proporre a un Sanremo, e quindi abbiamo fatto un testo diverso, però non c'è stata nessuna costrizione, è stata una scelta così nostra. In realtà poi io più tardi ho scritto un pezzo che si chiama Vieni a Marghera. Vieni a Marghera, e quindi ho pareggiato, insomma, il conto. E questo è stato prodotto da Roberto Colombo, che era un produttore molto ricercato, molto particolare. Sì. Poi il compagno di Antonella Ruggero, esatto, che ha fatto la famosa sigla di Stereo Notte. Di Stereo Note, mitica sigla di Stereo Note, l'ha scritta Roberto Colombo. Esatto, e anche credo che abbia scritto anche le musiche di Beautiful, le sigle. Non lo sapevo questo. E credo che, siccome sono 30 anni che vanno avanti queste sigle, secondo me è diventato miliardario. È vero, è verissimo. A proposito dei diritti SIA, in questo caso. I diritti d'autore. Va bene, allora abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme con Aldo Tagliapietra, poi naturalmente la diretta va avanti qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Abbiamo gli Heidi che vengono da Macerata e non vedono l'ora di far sentire la loro musica, però diciamo che forse c'è ancora il tempo per un paio di pezzi, Aldo. Sì, allora, sta attento, si parlava di Marghera. Sì. Ecco, io direi di parlare della canzone del 1971 che è nata a Marghera, che si chiama Cemento Armato. Certo, certo. Ecco, qui bisogna abbassare i microfoni perché guarda che sparo, guarda che sparo. Sto attento. Cemento armato, la grande città, senti la vita che se ne va. Vicino casa non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Ci son più sirene nell'aria che canti di usignoli, è meglio fuggire e non tornare più. La casa lontana, gli amici di ieri, è tutto svanito, non li ricordo più. Cemento armato, la grande città, senti la vita che se ne va. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con pubblico e privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, pubblico e privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche Cemento Armato, era il collage del 1971, le orme Aldo Tagliapietra, con questa voce molto potente in questo caso, difatti ci hai avvisato prima. Eh beh sì, su Cemento Armato c'è l'incazzatura, no? Sì. Anche musicalmente era un pezzo molto sostenuto, Cemento Armato. Sì, infatti c'è molto arrangiamento dentro. Molto ricercato. Certo. Flavio, stiamo spingendo Aldo a tutti i costi, io il nostro direttore artistico, a far sentire Mita che è un mito mio, della mia generazione praticamente, che era dedicata a Mita Medici all'epoca. Ma adesso non mi ricordo più le parole, ma credo che facesse: eri lì sulla pedana e ballavi e sognavi un po'. e i riflettori su di te ti davano mille colori, ma tu non guardavi mai la gente intorno a te. Ballavi e non sorridevi mai, perché sai che il tuo nome è Mita, Mita, Mita, Mita, Mita, Mita, guarda giù. Mita, Mita, guarda giù. Mita, Mita, vivi un po' come noi. Fantastico, bellissimo. Contenti. Bellissima, il Piper si ispirava, il Piper si ispirava il Piper, di tutto, i tempi di del Piper. Il Piper, Mita era un mito, mito, proprio un mito, ma Aldo cosa dici? Beh, per noi, per la nostra generazione, sì, perché era un'attrice giovanissima e in ascesa, come esatto. dire, no? E quindi era un po'... adesso non so, la Marian Faithful, sì, che del, so, italiana praticamente italiana in quel modo, sì. Noi vorremmo proseguire all'infinito con Aldo Tagliapietra, rubargli ancora delle emozioni in musica, però il tempo è scaduto e quindi ringraziamo Big Bang ha detto stop. Big Bang ha detto stop, vorremmo riuscire a fermarlo anche noi, questo orologio potente che ci porta troppo avanti nel tempo. Grazie Aldo per essere grazie stato a tutti voi con e noi. Gli ascoltatori che sì. hanno avuto pazienza così di rivivere insieme qualche momento e ricordiamo che per gli ultimi 40 anni certo e per riviverli meglio basta entrare in possesso dell'Unplugged, questo cofanetto formato da due dischi che si trova in tutti i negozi di dischi, sì. basta chiederlo Assolutamente. Basta esigerlo, certo. Benissimo, allora grazie ancora grazie Aldo, a tutti voi. Buon grazie rientro Aldo. E noi ci sentiamo presto, anzi verremo sicuramente a vederti in uno di quei concerti che saranno elencati all'interno del tuo sito internet. Quindi ricordiamo Aldo Tagliapietra Unplugged, questo è un disco di cui, anzi due dischi di cui assolutamente non si può fare a meno. Bene, allora Aldo, ci saluti alla tua maniera, quindi cantando? Sì, va bene. Cosa ci proponi? A questo punto parliamo di una regina. Sì. Regina il Troubadour. Ah, benissimo. Allora noi, Flavio Bilato e Maurizio Cazzavara, che arriveremo più tardi. Sì, benissimo. Quindi il tempo tecnico di sistemare gli strumenti degli Aedi e poi ritorniamo qui in diretta live. Questa volta ai microfoni ci sarà anche Marco Borgato. Benissimo, allora grazie ancora Aldo e grazie facci sognare voi. Ancora una volta. Grazie. Grazie Aldo. Regina il Troubadour, regina della neve, son tutti attorno a te, perché non sai dir no, distribuisci a ognuno il bene più vicino, facile, facile, tu devi darmi la mia realtà. Io ho bisogno di un posto mio. Non puoi guarire i mali di ogni uomo con la tua medicina. Non ti sei accorta che un giorno sono entrato per portarti un regalo. Tu non hai visto il nuovo giorno. Negli occhi miei. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.